hangos órában, ma 20 óra 34 perctől. Műsorajánlót hallottak. Műsoraink részletes ismertetését megtalálja az Új Ember kiadó gondozásában megjelenő mértékadó műsorújságban, a Keresztény Élet című hetilapban, valamint rádiónk www.katolikusradio.hu honlapján és a port.hu országos programajánló portál oldalain is. 19 óra 35 perc. Igeidő. Egyházi szaknyelvi lecke sorozat olasz nyelven. A 19. rész ismétlése következik. Cecilia al collegio Valdugo. Pensate, e finalmente trovato l'occasione per andare a quelle felice. Sapete, nelle valli alpine dove vivono i Valdesi. Ma non avevi detto che di comunità valdesi se ne trovano in quasi tutte le maggiori città italiane? Io stesso li ho incontrati il fine settimana scorso, quando siamo andati a Como. Te lo ricordi, vero Stefan? Sì, e ci sono anche a Milano, e anche in centri più piccoli, come Cinisello Balsamo, qui vicino. Ma storicamente, cioè circa dal 200 fino alla loro emancipazione, vale a dire fino al 1848, risiedevano nelle tre valli piemontesi del Pellice, del Pisone e del Germanasca. Dici piuttosto come hai trovato sistemazione? È già tutto a posto. I valdesi hanno delle foresterie nei centri dove sono presenti. Ebbene, allora buon viaggio. Elisa, la ragazza che aspetta Cécile alla stazione di Torre, è una studentessa del collegio Valdese. Eccoci arrivate al nostro campus Valdese. Da qui puoi vedere a sinistra prima il collegio, poi l'edificio del convitto, adesso sede della società di studi valdesi e del centro culturale valdese, nonché della biblioteca del museo storico. A destra ci sono la casa valdese, sede della tavola valdese, il nostro esecutivo, e luogo del nostro sinodo annuale, il legislativo. Poi il tempio con l'abitazione del pastore accanto. Alle nostre spalle invece c'è la foresteria, dove potrai dormire e mangiare in buona compagnia. Per oggi basta così. Grazie Elisa, ci vediamo domani. Il giorno dopo, Cécile ed Elisa si erano date appuntamento nel pomeriggio davanti alla scuola. Elisa spiega tutta contenta. Eccoci al nostro collegio, fondato come vedi iscritto nel 1831. In realtà non è un vero collegio. Da quando è facilmente raggiungibile in treno, prima in macchina, non c'è più bisogno dell'alloggio. È un liceo insieme classico, linguistico e scientifico sperimentale, con percorsi formativi particolari, che partecipa a vari progetti europei. Siamo un centinaio di studenti, con una rosa di circa 12 professori. Se vuoi conoscere alcuni giovani, possiamo uscire insieme stasera. E poi, sai una cosa, potresti venire al tempio per il culto di domani alle 10, essendo la Domenica delle Palme, potrai assistere alla promessa dei neoconfermati, ma comunque sarà un culto festivo, vale la pena di vederlo, già che ci sei. Cécile, la mattina dopo, si trova con Elisa davanti al tempio neogotico e salgono in galleria con gli altri giovani. La liturgia, nonostante le evidenti vicinanze, non solo geografiche, con Ginevra, non è quella che Cécile si aspettava. I valdesi seguono un ordine di culto molto simile a quello luterano tedesco. Su un foglio stampato, datole dalla ragazza, c'è l'ordine del culto in quattro lingue. Così sa quando alzarsi e sedersi, alla confessione del peccato e all'annunzio del perdono. Può seguire anche le letture bibliche, visto che la sua Bibbia francese e quella usata per lo più dai valdesi sono la stessa traduzione di Ginevra. Poi anche i canti e gli inni, certo non per il testo ma per la melodia, le sono molto familiari. Molti di questi sono ancora quelli cinquecenteschi ginevrini. Nota che anche qui c'è lo spazio, prima del Padre Nostro, per le preghiere personali in silenzio. Infine canta il giuramento di Sibaud, seguendo il testo stampato sul foglio, e si commuove, ricordandosi della sua promessa della confermazione. Allora, chi sono i valdesi? Una minoranza etnica o religiosa? I valdesi sono una minoranza religiosa, presente in Italia dal 200. Sono stati perseguitati come eretici per vari secoli, soprattutto nel 500 e nel 600. La maggioranza delle loro comunità è stata distrutta, come ad esempio da noi in Calabria, Guardia Piemontese, nel 1560. Alcuni loro centri però sono sopravvissuti nelle valli delle Alpi occidentali. I loro luoghi storici, detti anche Valli Valdesi per l'appunto, dal 1848 in poi sono partiti da queste valli per evangelizzare l'Italia. In questo modo hanno fondato delle comunità nelle maggiori città italiane. In Sepolta erano quasi 300.000, ora sono circa 40.000. Esistono ospedali, case per anziani, centri e comunità per tossicodipendenti, hanno un liceo e una facoltà di teologia. Che cos'è la Domenica delle Palme e come viene festeggiata dai valdesi? La Domenica delle Palme, ricordiamo, l'entrata trionfale di Gesù Cristo a Gerusalemme qualche giorno prima della festa ebraica della Pesach e quindi della sua morte sulla croce. Presso i valdesi, nel corso del nuovo anno di questa è la domenica della confermazione. Superati gli esami, il giorno prima, i giovani confermano la loro appartenenza a Cristo e alla confessione valdese, entrando a far parte in questo modo a pieno titolo da confermati adulti delle loro comunità locali. E quindi, come può mantenere la propria identità una minoranza religiosa? Secondo me ci sono almeno due lati della risposta. C'è un lato tecnico e uno spirituale. Dal punto di vista tecnico, se la diffusione territoriale è troppo grande e i fedeli sono troppo pochi, quindi anche le condizioni economiche sono poco promettenti, è assai difficile che un gruppo qualsiasi di persone riesca a tenere insieme qualsiasi iniziativa. Certo, oggi con l'internet le cose sono molto più facili, tuttavia ci sono certi rapporti personali che non sono certo virtualizzabili. Ecco ora alcuni termini. Concistoro. All'epoca di Giovanni Calvino, la Chiesa ginevrina era governata da questo Consiglio dei Ministri e dei delegati dei consigli cittadini laici. Presso i valdesi la stessa istituzione è un consiglio direttivo composto di pastori e anziani della Chiesa, presbiteri, credenti cioè, a cui l'assemblea della comunità riconosce il dono e l'esperienza di maturità necessari per guidare i fratelli. Ministro. L'estrema varietà in cui i valdesi vissero produsse diversi tipi di ministero ecclesiastico. Una gerarchia è quella dei ministri del tipo presbiteri e vescovi, un'altra è il maiorale, che è una specie di guida degli altri. Nel 400 invece si giunse a una forma di ministero definito barba, l'altra figura medievale del pastore valdese. Dal 500, a partire cioè dall'adesione alla riforma protestante, i ministri vengono chiamati pastori e si dedicano soprattutto alla predicazione della parola di Dio e alla cura delle anime. Ordine del culto. È il programma del culto comunitario. Stabilisce la sequenza degli inni, preghiere, attività e passività, letture bibliche e della predicazione, non necessariamente del pastore, da parte della comunità partecipante. Predestinazioni. Insieme delle decisioni di Dio prese ancora prima della fondazione del mondo riguardo a concedere benedizioni agli uomini. Dio ha così predestinato gli uomini all'acquisizione della salvezza in Gesù Cristo, ad essere suoi figli e suoi eredi. Ma qualche persona rispondono alla chiamata di Dio e accettano con gioia effettivamente dai suoi benefici. Gli incredibili possono essere utilizzati loro malgrado come dimostrazione del giudizio e della potenza di Dio. Tavola. Consiglio direttivo delle chiese valdesi, eletto annualmente dal sinodo, a cui risponde del suo operato. È composto da 7 membri, di cui almeno 2 laici. Come ogni chiesa riformata, anche i valdesi inizialmente furono diretti dal sinodo presieduto da un consiglio di 3 membri, che veniva indicato con l'espressione quelli che stanno al tavolo, in quanto l'assemblea fino al 1889, anno di costruzione della casa valdese, luogo attuale del sinodo, aula sinodale, si teneva sempre in un tempio. Viene presieduto dal moderatore presidente. Tempio, luogo di culto valdese. Le altre chiese protestanti e la chiesa cattolica usano il termine chiesa per indicare l'edificio del culto. Nelle altre religioni ha un nome proprio, sinagoga per gli ebrei, stupa per i buddhisti, moschea per gli ebrei, eccetera. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a tutti. Igen, időt címmel nyelvileg kesúrozatunkat a Károli Gáspár Református Egyetem készítette.